24 mattino. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure. Partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure quando guardo il cielo penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Tutto bene, certo, però come mai Anna Frank viene detta da una voce maschile, sia pure dentro uno stadio? Domanda da consegnare ai posteri. 7:21 minuti, 55 secondi e noi siamo qui a parlare subito con la panoramica sui titoli dei giornali. Ecco quanto perderemo di pensione. I giudici stanno con il governo, titola La Verità, e il fondo di Belpietro ne segue, e perché, come sapete, c'è stata questa sentenza della Corte, della Corte Costituzionale, che ha smentito una sentenza della Corte Costituzionale del 2012, secondo cui il governo avrebbe dovuto restituire integralmente 24 miliardi ai pensionati italiani. Libero. L'autonomia è nemica degli sprechi romani, ecco perché il governo è ostile a Zaia e Maroni, il pezzo di Zulin e il fondo di Pietro Senaldi. Se ne infischiano del plebiscito e pensano solo allo Ius Soli. Miraggio pensione, anche il giorno sul tema della previdenza, e spiega la storia. La previdenza scava un fossato fra generazioni. Papà Aereo ha finito di lavorare a 55 anni, il figlio Filippo potrà farlo quando ne avrà 71. Il PD pressa il governo, non alzate l'età pensionabile. Il Tempo, ecco la vera telefonata di Lotito. La frase shock del presidente della Lazio sulla visita in sinagoga, famosa sceneggiata, in realtà parlava con un membro della comunità ebraica. Leggete quello che si sono detti. Il pezzo è di Luigi Salomone ed è una controverità per provare a difendere il presidente della Lazio. Poi cercheremo di capire se è vero oppure no. Avvenire, libero, creativo e solidale, ecco il lavoro che vogliamo. Si apre a Cagliari la 48esima settimana sociale dei cattolici, dalla denuncia dei mali all'ascolto, dalle buone pratiche alla proposta. Un'altra storia, l'editoriale di Leonardo Becchetti, generale, trovare e condividere sempre su questa esperienza. Durissimo il giornale sulle pensioni. Sì, perché il titolo di apertura, diciamo, del giornale è sulla Franca, ancora oltraggi ma i veri antisemiti sono sinistra e 5 Stelle, poi vi spiegheremo perché, mentre l'apertura è pensioni rapinate, sanguisughe di Stato, la consulta conferma lo scippo, assegni più poveri. Interessante anche una spalla di Langone, le frasi del pontefice, se Bergoglio ammette che il paradiso non è un granché. La Stampa, pensioni BCE, allarme conti pubblici, mossa del PD, rivedere l'adeguamento dell'età, sempre pensionabile si intende, Draghi dimezza gli stimoli, spread rischio, anche il Senato vota la fiducia alla legge elettorale, Napolitano forti pressioni su Gentiloni. Il Foglio, orrenda sceneggiata di Lotito, l'apertura, ma contro gli ebrei se ne vedono tante e più gravi, la menzogna politica che attecchisce più di un adesivo, il pezzo di Giulio Meotti ovviamente sul caso Anna Frank. Il Fatto, la Boschi fa viaggi privati all'estero e li paghiamo noi, imbarazzo per il tour in Canada, un servizio esclusivo, come scrive la prima pagina del quotidiano di Marco Travaglio, bellissima la vignetta di Vauro sul Rosatellum, c'è un'Italia turrita con una benda davanti agli occhi, democrazia bendata, e poi una mano che dice: vuole l'ultima sigaretta? Il Corriere Innovazione, oggi col Corriere, capitalismo elettrico e un supplemento sull'innovazione. La Repubblica, Verdini e la Lega salvano il governo, vedete un titolo diverso. Il Corriere dello Sport titola sulla Lazio, la Gazzetta dello Sport su Napoli e Juve, e poi il Corriere della Sera, legge elettorale sia la fiducia ma Napolitano accusa, con la foto di Immobile e la maglietta di Anna Frank. Il Sole 24 Ore, apertura diversa ma importante, MPS regge al primo test. Sì, perché dal giorno della quotazione in borsa, per la borsa vale 5,2 miliardi. Si sarà salvata la banca che è stata la croce e la delizia delle nostre casse, dei nostri conti. Il Messaggero: c'è la fiducia, ma i numeri sono in bilico. E quella foto di copertina con i giocatori della Lazio a Bologna, tutti con la maglietta, con la faccia di Anna Frank, errori fatali, quel che resta del Parlamento ridotto a piazza, ovviamente il fondo di Marco Gervasoni è sulla legge elettorale. Allora, subito per dirvi una cosa che forse non ha notato nessuno, non lo so, la maglietta che nel fotomontaggio era stata attribuita ad Anna Frank, la maglietta della Roma, non è una maglietta come tutte. Forse non sapete, chi non segue il calcio, che ogni anno le squadre cambiano con piccoli dettagli, anche per motivi di marketing, la loro divisa di gara. Ebbene, quella maglietta era la maglia di 4 stagioni fa, cioè era la maglia del primo anno in cui Rudy Garcia era allenatore. Perché vi dico questo? Perché probabilmente una delle cose che dicono i tifosi della Lazio inventando teorie del complotto è vera, cioè l'adesivo era stato fatto tanto tempo fa, quindi è stato un complotto contro di loro che ha portato sulla ribalta dei giornali quella foto e ha creato lo scandalo mondiale. No, è la bestemmia in chiesa, cioè quell'adesivo poteva esserci da tanto tempo negli spogliatoi o, scusate, nella curva nord della Lazio. È stato portarlo in curva sud che ha fatto deflagrare la bomba, che ha reso, come dire, lo sfregio una evidenza ineludibile. Allora ci fermiamo 7:28 per pubblicità e meteo e torniamo subito dopo con il resto della rassegna. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. Far frutta, la natura di prima mano. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Mattino. 23 ci occuperemo finalmente del treno del PD, è in viaggio. Anche sul treno Renzi vuol fare tutto lui, fa tutto lui, guardate le immagini, fa il capostazione, guarda, fa il macchinista, lo pulisce, fa tutto lui. Col treno del PD, ha detto Renzi, il nostro obiettivo è il 40%, ci siamo quasi, da quando il treno è partito il PD ha già perso il 35%. Ma è grande Gene Gnocchi con le battute caustiche sul treno. Arrivano già tanti messaggi al 349-238-6666, 800-24-0024. Tutte le vostre comunicazioni mi dicono che ci sono le idee più diverse su questa vicenda di Lotito, dello scandalo. Allora, iniziamo subito con il caso Lotito. Allora, lo avevamo ospite ieri, avete sentito, va alla sinagoga, non riesce a trovare un appuntamento, si arrabbiano i responsabili della comunità ebraica, addirittura i suoi fiori vengono gettati nel Tevere. Allora, chi vuole un parere contro Lotito, il record del Gaffer: solo Claudio Lotito, scrive Sebastiano Messina su Repubblica, poteva riuscire nella non facile impresa di trasformare uno sciagurato episodio di antisemitismo in una scena grottesca da cinepanettone, in una sequela di gaff, di equivoci, di pasticci, che sembra il copione di una commedia pop degli anni Ottanta. E quando lo ascolti ti domandi se quella è davvero la voce di uno che da 13 anni è il presidente di una delle squadre della capitale, perché a volte ha l'insopprimibile sensazione di sentire il tono di Diego Abatantuono, le battute di Lino Banfi, la voce di Alvaro Vitali, mentre lui cerca di riparare un pasticcio con una toppa peggiore del buco. Sono parole severissime, poi vi leggerò anche all'estremo opposto, come dire, la tesi difensiva di Lotito, ma andiamo a vedere il Messaggero. Lorenzo De Cicco è il giornalista che ha messo in rete l'audio della famosa telefonata a bordo, andiamo a fare sta sceneggiata. E che cosa dice il giornalista del Messaggero? Eccolo qua. Allora, pagina 10, Lorenzo De Cicco. Quel signore con il gessato grigio che martedì mattina davanti alla sinagoga annunciava giocheremo con la foto di Anna Frank sulla maglia è lo stesso che solo una manciata di ore prima descriveva l'omaggio della sua società alle vittime dell'Olocausto come una commedia farsesca. E dice il giornalista del Messaggero, una sceneggiata, l'ha chiamata così Claudio Lotito lunedì sera davanti a diversi passeggeri che insieme a lui volavano nell'aereo da Milano Linate a Roma. Ecco perché, quando la notizia arrivata dal Messaggero è diventata di dominio pubblico, alcuni giovani della comunità ebraica sono andati a prendere la corona dei fiori che il presidente della Lazio aveva lasciato sui gradinati del Tempio Maggiore e l'hanno gettata nel Tevere. La sceneggiata finisce qui. Parlano questi ragazzi al Corriere della Sera, cerco di darvi proprio un ipertesto in diretta, pagina 9. No, pagina. Eccolo qua, pagina 11. I ragazzi del ghetto, il suo era uno show, ecco perché abbiamo buttato via la corona. Ma vi rendete conto, racconta Rinaldo Frignani, il Corriere, per mettere la sua corona sul muro del Tempio Maggiore, Lotito ha fatto spostare quella del comune e della regione Lazio portate il 16 ottobre alle celebrazioni per il rastrellamento del ghetto. Adesso in mezzo, fra i fiori, c'è un buco e poi quelle almeno erano composte di fiori freschi, i suoi erano persino appassiti. Chi nella mattinata di ieri ha afferrato e scaraventato nel Tevere la corona avvolta dal nastro biancoceleste, racconta Frignani sul Corriere della Sera, deposta martedì mattina dal padron laziale nelle differenze nel gelo della comunità, sa di avere il sostegno di almeno una parte degli ebrei romani. L'altra invece considera quel gesto sbagliato. Quello di Lotito, dicono, è stato uno show, nemmeno un passaggio in sinagoga, è subito andato via. La storia della sceneggiata lo conferma, si vede che è venuto qui con lo spirito giusto, quello per cui si dovrebbe vergognare. E vi leggo invece sul Tempo, per chi piacciono i gialli, perché tutto in Italia diventa giallo, la vera telefonata di Lotito. A pagina 3, il pezzo è di Andrea Ossino e Attilio Ievolella, e quello che loro dicono, scusate, di Luigi Salomone, che è stato montato. Il presidente voleva incontrare un membro della comunità ebraica, stava parlando con lui e al rifiuto dei vertici l'amarezza di Lotito sarebbe stata ma allora è una sceneggiata, cioè la frase non era riservata al gesto che Lotito stava per fare ma al modo in cui la comunità ebraica rifiutava di incontrarlo. Sarà vero o non sarà vero? Non lo so, io vi do queste due luci perché è la notizia più importante del giorno ed è una verità controversa. Allora, abbiamo raccontato delle reazioni, ma sul Corriere c'è un bellissimo pezzo in prima pagina di uno scrittore italiano che conoscete forse, Alessandro Piperno. Lazio e Shoah, le mie due anime inconciliabili. Piperno è uno dei più famosi autori, ma è anche uno stratifoso della Lazio e lui compila un bellissimo elenco del grottesco di questa vicenda. Dice, sono grotteschi gli atti compiuti, Corriere pagina 13, in curva sud dai teppisti che condividono con me solo la loro fede sportiva. Si tratta di turpe pornografia che spero sia punita con severità. Esemplare e senza precedenti. E sono grottesco che stralci di quei capolavori che appartengono all'intimità di ciascuno di noi, il diario di Anna Frank, vengono recitati in strade semivuote nella diffusa e legittima indifferenza. È grottesco che soprattutto che continui che una questione di ordine pubblico diventi un pretesto per proclami, striscioni, slogan, momenti di riflessione, indagini sociologiche. È grottesco che il presidente di una squadra di calcio porti corone alla sinagoga e lo è altrettanto che i maggiorenti della comunità ebraica rispediscono al mittente tali goffi omaggi floreali. È un bellissimo pezzo sull'assurdo di questa vicenda, se lo volete leggere una paginata intera. E credo che si possa chiudere qui la parte riservata a questa vicenda con l'unico elemento positivo per me di questa cronaca, che Anna Frank è arrivata e buca con quel sorriso, con quell'immagine, le magliette di Anna Frank, tra gli ultà c'è chi fischia, negli stadi letture e applausi, Francesco Battistini, Corriere pagina 11, i tifosi laziali intonano, me ne frego, però Anna Frank è arrivata e ha lasciato il suo segno. Allora, vi dicevo dell'altra grande notizia che riguarda le pensioni. È stato un colpo di scena. Sì, perché la Corte Costituzionale si doveva pronunciare su un ricorso che riguardava una sua sentenza, e cioè quella del rimborso ai pensionati. Allora, sentite cosa scrive il giornale. Pensioni rapinate. È il pezzo di Francesco e Signorini. La Consulta ha deciso, governo salvo pensionati scippati. Scrive Gian Maria De Francesco, firma economica autorevole del giornale di Milano. La Corte Costituzionale ha salvato il ministro dell'Economia Padoan e di riflesso tutto il governo, disinnescando la mina, tra virgolette, delle perequazioni. In pratica, la Consulta ha dichiarato non incostituzionale la disciplina temporanea delle rivalutazioni degli assegni pensionistici previsti dal decreto legge del 2015, il cosiddetto decreto Poletti, in quanto essa realizza un bilanciamento, scrive la Corte oggi, non irragionevole fra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica. Tradotto in italiano, realpolitik, non ci sono i soldi e quindi bisogna accettare anche questo. La Verità, Antonelli, che sapete da tre giorni batte su questo dato, ha fatto fare un calcolo. Quanto, La Verità, pagina 3, quanto influisce nel conto nelle tasche dei pensionati questa misura per il pensionato medio che guadagna 1.300 euro, pensate un po', 25.000 euro in meno, quindi non stiamo parlando di barzellette. Ma d'altra parte, La Stampa, pensioni e BCE, allarme dei conti pubblici, ecco la vera motivazione, due bombe a orologeria sui conti. E ci sono due grandi numeri, è una pagina bella che voglio raccontarvi così. 100, l'extra costo eventuale stop all'innalzamento a 67 anni dell'età pensionabile, secondo La Stampa sarebbe una bomba atomica. E poi l'aumento di spese del tesoro dopo l'inevitabile eliminazione dello scudo di Draghi è stimabile in 25 miliardi. La fine degli stimoli BCE riavvicina l'Italia all'incubo dello spread. Forse questa è la soluzione, forse La Stampa con queste due pagine ci dice perché c'è stata quella sentenza. Non tanto perché mancano i soldi, ma perché sta per arrivare una tempesta. La pagina più articolata, ovviamente, su questo, ma era prevedibile, è sul Sole 24 Ore. Sul Sole 24 Ore trovate una spiegazione molto ampia di quello che sta accadendo, con una bella tabella, perché io amo le belle tabelle. La Consulta salva la mini indicizzazione, così almeno abbiamo una parola italiana che si capisce. Era legittimo il prelievo del 2012-2015 e il pezzo di Davide Colombo e Matteo Prioschi spiega. La Corte ha ritenuto che, diversamente dalle disposizioni contenute nel decreto legge Salva Italia e annullate quelle del blocco, la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto legge del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole. Si dovrà attendere il deposito della sentenza, scrivono i due giornalisti del Sole, per conoscere nel dettaglio le motivazioni alla base della decisione, che ritiene conforme alla Costituzione il provvedimento. E quanto non erogato nel 2012 e nel 2013 sarà rimborsato solo in parte. Quindi la tabella di cui vi dicevo spiega come cambia la rivalutazione, la quota di assegno soggetta alle nuove norme e quanto in più o in meno incasseranno i pensionati italiani. La notizia di spalla, Marco Rogari, sull'età pensionabile, pressing del PD, obiettivo esentare i lavori gravosi. Cioè, il Partito Democratico ha preso una posizione, ma il suo governo il suo governo l'aspetterà. La posizione è esentare coloro che fanno lavori cosiddetti usuranti, che oggi non sono compresi nella mini normativa che riguarda solo e sostanzialmente i lavoratori notturni. Ci fermiamo ancora a Strada in Diretta e torniamo con la rassegna. Ciao papà, sei Mattino. Parlare di riforme istituzionali con me, di riforme elettorali con me, Vespa, è come parlare di corda in casa dell'impiccato, cioè proprio sono quello meno adatto. Buonasera, Matteo Renzi a Porta a Porta, e c'è un ideale dialogo, anzi scontro, fra lui e Beppe Grillo dalla piazza di Montecitorio con la cerimonia dei bendati. La foto che vi descrivo è quella di lui, Beppe, con la mano tesa, e Di Maio e Di Battista che si fasciano gli occhi, sembra la scena di Minority Report. A Renzi Grillo dice: Ducetto Bulletto, ci hai copiato anche il treno, farai presto anche il Vaffadei. E chi lo sa, e qui nella politica non ci sono copyright. Ma vi dicevo, l'attenzione di Repubblica sul cambio di maggioranza, Verdini e la Lega salvano il governo, e il fondo di il retroscena di Goffredo De Marchis, Gentiloni sdogana i voti sporchi addirittura. Votare così o salta il bilancio dell'Italia, e i Dem puntano anche allo Ius Soli. Questo racconta il Repubblica, con una denuncia di Cecilia Guerra di MDP: per poter galleggiare truccano anche le missioni di Forza Italia, cioè ci sarebbero dei deputati in missione, secondo la capogruppo di MDP, che sono stati messi in quello stato dove quindi non partecipano al voto per garantire il numero legale. Vi dicevo, il Corriere della Sera torna su questo tema. Intanto il pezzone di Cazzullo fra lo scontro fra l'aula e la piazza, ma la maggioranza, c'è la parola di loro, gli oggetti di tutte queste accuse, i verdiniani: lasciamo perdere le sciocchezze sul fatto che siamo o non siamo maggioranza, dice a Tommaso Labate Vincenzo Danna. Il tema non è più che siamo stati indispensabili oggi sulla legge elettorale, che è vero, il tema è che noi verdiniani saremo indispensabili domani per approvare la manovra. In un angolo di Palazzo Madama, alla fine della batteria di voti di fiducia che ha blindato la riforma elettorale col sì decisivo della sua pattuglia, Vincenzo Danna cala il jolly sulla partita che sta per aprirsi a breve. Senza MDP in maggioranza, con quali voti si approva la legge di stabilità? La testa d'uovo del verdinismo sorride con i nostri, che saranno decisivi per la manovra. E poi Napolitano ce l'abbiamo, quel frammento di quel tono sussiegoso, un po' ottocentesco, che però è un marchio di fabbrica dell'ex Presidente della Repubblica? Singolare e sommamente improprio? Singolare e sommamente improprio ho trovato il far pesare sul Presidente del Consiglio la responsabilità di una fiducia che garantisse la intangibilità della proposta in quanto... Capite? Napolitano dice che Gentiloni ha subito pressioni e le ha subite da Renzi. L'interrogativo, scrive Marzio Breda, quirinalista eccellente del Corriere della Sera, ripropone un'eterna questione sulla quale la politica si è sempre divisa, quando ha avuto a che fare con leader ultradecisionisti che recriminavano sul Parlamento dove si perdeva tempo e dove venivano legate loro le mani. Per il senatore a vita, cioè Napolitano, scrive Breda, il dilemma non è fiducia sì o fiducia no, anche perché non è stata mai affrontata, neppure dinanzi alla Corte, un'obiezione di incostituzionalità sulla fiducia. Il problema è la forzatura che ha blindato e tacitato il Parlamento. Statuto speciale, c'è una grande polemica, sempre il Corriere della Sera e il dibattito sul dopo voto, c'è una frenata di Zaia, secondo quello che scrive Marco Cremonesi. Ora Zaia è più cauto, le divisioni con Maroni e con Salvini. Il governatore veneto dice: ho tenuto un impegno morale, però c'è l'imbarazzo di Salvini, che pensate alla vigilia del tour in Sicilia. E Visco va verso la riconferma, ce lo racconta il Sole 24 Ore in prima pagina. Oggi il via libera con una lettera di Gentiloni a Banca Italia, partita chiusa, domani il Consiglio dei Ministri, Colombo e Patta. Pagina 9 del Sole 24 Ore ci spiegano come mai finalmente si è arrivati a questa quadra, finalmente si saprà chi è il successore di Visco, cioè lo stesso Visco. E vi dicevo che c'è un pezzo, un imprenditore importante, è il re del grana, pagina 13, Gandola: l'euro tedesco soffoca l'impresa, usciamocene e riprendiamoci subito la lira. Roberto Brazzale, il re del gruppo che sapete fa il Gran Moravia, per darvi un'idea, questo formaggio molto importante, e spiega in un'intervista che stupisce, perché è un imprenditore: molto moderato, lontano dalla politica, ma molto radicale su questo tema, il tema della moneta. L'Italia, dice a Gandola, non ha un problema industriale, bensì di cambio vincolato alla Germania. Ne so qualcosa io che lavoro con le esportazioni, bisogna tornare a una valuta propria e flessibile e solo così si può salvare il nostro sistema. È un'intervista che farà discutere. La spirale deflattiva, spiega, abbatte i salari italiani e la conseguenza più immediata è la stretta sui nostri consumi. Quindi anche questo volevo raccontarvi. La vignetta di LK su Repubblica è la più, è la più divertente sulla svolta del Partito Democratico. Il PD contro l'innalzamento dell'età pensionabile, e l'altra signorina che legge, sapete, le vignette di LK sono sempre dialoghi fra elettrici di sinistra. Sì, è vero, l'innalzamento riduce drasticamente le aspettative di voto, come per dire che il PD lo votano solo i vecchi, ma non è vero. Valentina Conte, importantissimo questo pezzo su Repubblica. L'Istat sotto accusa per i numeri, ma è la politica che decide quale sarà l'aspettativa della vita. Gli aggiornamenti sono previsti ogni 3 anni. La dettagliata legge è stata varata dagli stessi parlamentari che ora osteggiano l'innalzamento. E qui è un bellissimo serpente che si morde la coda. Cioè, questo numero di quello che un tempo era un istituto di ricerca che produceva numeri in astratto è diventato un numero importante per la politica. I politici si sono arrabbiati, ma quel vincolo e quel meccanismo è stato deciso con una legge quando sembrava che non fosse importante. Ebbene, c'è molto da dire, ma prima GR Estrade. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.